Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di legge di bilancio, come si chiama adesso la legge di stabilità, come si chiamava una volta la legge finanziaria, dopo le dichiarazioni di ieri del Presidente del Consiglio. Ragioniamo anche, come sempre, sì, sulle dichiarazioni, le intenzioni del Governo, ma anche sulle coperture. E mi riferisco a un insieme di elementi sia sulle pensioni ma anche sulle imprese, dove l'ipotesi e lo studio di far scendere l'IRES al 27, dal 27,5% al 24%, circa 3 miliardi di costo per questa misura, e invece far slittare, se abbiamo ben capito, più avanti la riduzione dell'IRPEF. Questo assieme all'ipotesi di sostenere le pensioni minime e una tassazione agevolata per chi esce anticipatamente dal lavoro. Di questo parleremo. Parleremo anche di notizie di carattere internazionale, o meglio europeo, la legge di bilancio tedesca in questo caso, e quindi la finanziaria tedesca, contiene un importante piano di sgravi fiscali, 15 miliardi di euro a favore delle piccole e medie imprese tedesche e dei contribuenti a basso reddito. La cosa che fa notizia però è che, nonostante le raccomandazioni dell'Unione Europea, Bruxelles chiede ai vari paesi di non avere un deficit superiore al 3%, altrimenti scattano le sanzioni, e di portare questo deficit verso lo zero. Ma questo rientrava nell'accordo di Maastricht, anche di non avere un surplus, quindi l'opposto del deficit, superiore al 6% del PIL. Perché? Perché si dice, insomma, per evitare squilibri, un paese non può spendere più di quello che incassa, o meglio, deve spendere non più del 3% di quello che incassa come differenza, quindi il deficit, ma non può nemmeno risparmiare e quindi tenere come attivo, chiamiamolo così, questo è il surplus, più del 6% del suo PIL. Altrimenti avremmo, per usare l'esempio di una casa, fratelli troppo risparmiosi e fratelli troppo spendaccioni. Cerchiamo di avere un'armonizzazione. Ebbene, la Germania, nonostante gli inviti che le erano arrivati anche da Jackson Hole, che erano arrivati anche in molti vertici del G20, quest'anno va a un surplus del 9%, quindi dai 300 va praticamente il surplus complessivo della Germania, e il 9%, 3 punti percentuali superiore a quello previsto, come detto, massimo dall'Unione Europea. E tra l'altro, su questo devo dire, l'attivo è più o meno di 278 miliardi di euro, è l'attivo di bilancio più grande al mondo in assoluto, lascia stare le dimensioni, non ce l'hanno neanche gli Stati Uniti un attivo così. 278 miliardi, nonostante le varie richieste della Germania di investire, di fare investimenti per fare ripartire il ciclo economico nell'area euro, ammesso che siamo ancora un'unica casa, ma e le raccomandazioni di Bruxelles di non arrivare al 6% se ne è fregata allegramente. Ecco perché poi la Germania può permettersi anche un piano di sgravi fiscali da 15 miliardi di euro. Io dico una cosa volutamente con polemica: se c'è un paese che ha avuto solo benefici dall'euro e dalla gestione della crisi post 2008 è la Germania. Il dato di oggi, dove il numero di disoccupati in Germania è sceso ai minimi da 25 anni, benissimo, merito delle imprese tedesche, ma merito anche di una Germania che è stato uno dei pochi paesi ad avvantaggiarsi di un insieme di condizioni. Sull'export la conosciamo, la polemica per cui rispetto al marco l'euro è vantaggioso, soprattutto un euro a 1,12. Ma quello che non capisco è di che cosa si lamentino i tedeschi. Cioè, dovrebbero essere contentissimi, tra i pochi a essere contenti di questa gestione europea che vede sempre migliorare il loro surplus senza che spendano, e sempre migliorare i dati sulla disoccupazione. Dovrebbero fare un monumento all'euro e a questa gestione tedesca dell'euro. Invece vincono e vanno avanti Alternative for Deutschland. Va bene, per carità, non si è mai contenti. Detto questo, appunto, 15 miliardi di euro per le piccole e medie imprese, ne parleremo, e anche 19 miliardi per gestire l'arrivo dei rifugiati. Infine, dalla Germania, volo un po' pindarico, a Roma, E qui premetto subito una cosa, prima di ricevere al 349-238-6666 via sms o via whatsapp messaggi diciamo fuori tema. Non ci occuperemo della cronaca politica, di quello che sta capitando alla giunta Raggi e su tutti i giornali, nei nostri GR24, ci mancherebbe. Ci sono due vicende, noi le seguiamo moltissimo le municipalizzate, abbiamo anche la classifica del venerdì che spesso ha le municipalizzate. Ci sono però due vicende che riguardano due società al centro della cattiva gestione dell'intero sistema romano. E mi riferisco all'ATAC, la più grande azienda municipalizzata dei trasporti d'Europa, il buco più grosso che c'è in Europa, e l'AMA, che gestisce i rifiuti. La cosa singolare, e non me ne frega nulla che la Raggi sia del 5 Stelle, sia di Forza Italia, sia del PD, è che quando è arrivato il nuovo sindaco ha fatto fuori i due dirigenti che, stando ai numeri, a quello che vediamo, a quello che raccontiamo, avevano iniziato un'operazione di pulizia sia dentro l'ATAC, con risultati economici, non con valutazioni opinabili, che dentro l'AMA. E mi riferisco a Rettighieri per quello che riguarda l'ATAC e al ruolo di Alessandro Filippi, che è stato per 14 mesi direttore generale e finanziario dell'AMA, quello che aveva cercato di rompere, e c'era anche riuscito, il monopolio e quello che ruota attorno, diciamo, al ruolo di Cerroni, Manlio Cerroni, chiamato volgarmente Ermonnezza, ma in realtà è il signore dei rifiuti a Roma, è il padrone della discarica di Malagrotta, è la discarica a cielo aperto più grande d'Europa. Filippi di cosa si era accorto? Che in realtà gli impianti di tritovagliamento già presenti a Roma potevano tranquillamente, bastava farli lavorare a pieno regime, i quattro impianti, il trattamento meccanico biologico di cui l'azienda dispone, due di proprietà e due, bastava far lavorare a pieno quei quattro impianti per non aver bisogno del tritovagliatore. Quando è arrivata la Raggi, e qui devo citare Paola Muraro, che ha lavorato assessore per 13 anni all'AMA, con una consulenza un po' strana, 1.300.000 euro di compensi, 1.350.000 euro, ma sempre senza un contratto, solo con lettere di incarico vistate per accettazione. E la prima cosa che fa, si libera di Fortini, di Filippi e Fortini. Tutto, lo dico, non me ne frega nulla del colore politico, ma Rettighieri è riuscito a mettere uno stop ai furti, e lo racconteremo, dentro l'ATAC, e anche alcune pratiche di malversazione, per esempio l'usura dei pneumatici, l'abbiamo raccontato moltissime volte, che c'era un dipendente che aveva poi una società che forniva i pneumatici all'ATAC, che i pneumatici degli autobus romani si rompono e vanno in usura il doppio, il triplo dei pneumatici del resto del paese. Toccare questi due come primo atto, al di là del colore politico, a mio avviso è quanto mai singolare, anche perché c'erano dei risultati economici sia sull'AMA che sull'ATAC. Quindi qui è un problema di scelta delle persone, dopodiché uno può fare anche una valutazione politica sul ruolo della Muraro, e questo però non spetta a questo programma. Se tu per 12 anni hai un ruolo cruciale di consulenza all'AMA e l'AMA è ridotta, come abbiamo visto, forse anche solo per così, per contiguità, non era il caso di farti diventare assessore. Ma questo, diciamo, appartiene più alla valutazione politica. Noi oggi ci occuperemo dei dati, dei bilanci di questi due carrozzoni che qualcuno aveva tentato e aveva incominciato a risanare. 349-238-6666 per sms e whatsapp, dicevo, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, una sciocchezza, Barisoni, i servizi non funzionano, stai facendo propaganda. Mi faccia almeno, se ha un po' di tempo, lo dico all'ascoltatore, arriviamo a quando ne parliamo, le dico i numeri, le cifre, quello che è successo all'ATAC e all'AMA, e poi lei valuterà se stiamo dicendo una sciocchezza o no. Ripeto, sono numeri di bilancio, non sono valutazioni politiche. Andiamo sulla borsa. Più 1,40% Milano, Parigi più 0,50%, Francoforte più 0,60%, Londra più 0,30%. E l'America invece meno 0,30%, molto bene oggi Leonardo Finmeccanica più 3,40%, Recordati più 3,20%, Enel più 3% come Ferrari, STMicroelectronics più 2,70% come Popolare Emilia Romagna, Chrysler più 2,30% come Exor. L'unico titolo negativo in maniera, diciamo, Chiara è la Popolare di Milano, perde l'1,50%, poi in leggera flessione anche UniCredit meno 0,35%. Allora, andiamo sulle notizie di carattere internazionale. Interessante quanto ha annunciato oggi il numero uno di Starbucks, una delle più grandi catene a livello mondiale. Lui si chiama Howard Schultz e ha detto che Starbucks a breve avrà più caffetterie in Cina che negli Stati Uniti. E tra l'altro ha annunciato anche un cambio delle norme che regolano il lavoro. E oggi viene presentato l'iPhone 7, l'abbiamo ricordato anche questa mattina nel nostro GR24, a una settimana invece dai problemi enormi che ha avuto il Samsung, visto che i concorrenti sono due, S7 con le 31 casi, se non ricordo, di batterie che esplodevano, il ritiro del modello, moltissima attesa, anche se sia su Apple che su vari altri produttori si prospetta un calo delle vendite in un mercato ormai saturo, e il colosso di Cupertino, al di là della vicenda irlandese di cui molto abbiamo parlato, i 14 miliardi di tasse non pagate secondo Bruxelles, dovrà fare comunque anche delle scelte radicali sul futuro come strategie. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, solo 24 ore trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Il D-Day dell'Apple è arrivato. La presentazione della nuova linea di iPhone ha catturato l'attenzione non soltanto di milioni di appassionati e di fedelissimi del telefonino della Apple, ma soprattutto dei mercati finanziari. Gli ultimi risultati non sono stati così brillanti come in passato e soprattutto, come dicono gli analisti, a comprare l'iPhone è stata la metà delle persone nell'ultimo trimestre rispetto al periodo passato. Ma che cosa sta succedendo? Un po' l'ombra sta calando sulla novità, concorrenti come la Samsung stanno spingendo con prodotti analoghi, ma soprattutto si sta stringendo il pool di consumatori disposti a spendere cifre così elevate per avere sostanzialmente lo stesso prodotto di volta in volta. Per la Apple, insomma, le scelte sono difficili, ma soprattutto la scelta strategica è quella di decidere se continuare a spingere sul mercato consumer o se rivolgersi verso il grande mercato delle imprese. L'anno scorso la Apple ha realizzato 25 miliardi di dollari di ricavi soltanto con i servizi alle imprese. Grazie all'alleanza con IBM e con altri giganti del settore informatico, sta sostanzialmente candidandosi a diventare l'interfaccia dei servizi finanziari e soprattutto della gestione delle comunicazioni telematiche delle grandi e delle piccole imprese. Insomma, il mondo sta cambiando, la novità dei tablet e degli iPhone sta cominciando a spegnersi e, per sostituirlo, ci sarà soprattutto un mondo fatto di tecnologie di comunicazione rivolte al mercato del business, cioè agli affari. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Andiamo avanti con le notizie in breve, poi do un paio di risposte agli ascoltatori. Il tema di Atacama lo tratteremo alle 18.07, però ancora, dicevo, sui dati economici europei invece, dalla Gran Bretagna arriva una frenata brusca della produzione industriale a luglio, produzione manifatturiera meno 0,9% rispetto al mese precedente. Le stime degli analisti stimavano un meno 0,3%. Nel complesso è il secondo mese consecutivo in cui in Gran Bretagna si registra anche un calo nei prezzi delle case, meno 0,2% ad agosto dopo l'1,1% di luglio. Dicevo, frenata più forte delle attese, ma frenata più forte delle attese anche nella produzione industriale tedesca. In Germania infatti la produzione industriale ha fatto meno 1,5% e con un calo praticamente che la porta ai minimi dall'agosto del 2014. Due notizie in breve, anzi tre. Una molto grave, ci sono servizi anche nel nostro GR24, riguarda l'usura. Perché? Perché secondo le stime dell'Eurispes l'usura in Italia vale 82 miliardi, quasi 82 miliardi di euro, con 3 milioni di vittime, di persone che ci cascano dentro. Addirittura un'azienda su 10 nei settori agricoltura, commercio e servizi. Vi sono sia le mafie, ma anche insospettabili che approfittano della crisi che ha colpito molte famiglie italiane. Tant'è che il 12% su un totale di 24 milioni e mezzo di famiglie si è rivolta negli ultimi due anni a soggetti privati, non a parenti o amici, diciamo strozzini, usurai, per un prestito, non potendo ottenere dal sistema bancario. Si arriva appunto a una cifra di circa 30 miliardi per 3 milioni di nuclei familiari. E poi due notizie invece, una di carattere positivo: Alstom NTV Italia, quindi Italo, ha acquistato altri 4 nuovi treni pendolino da Alstom, e anche la manutenzione. È stato firmato oggi l'accordo tra appunto il presidente di NTV Andrea Fragali Zenobi e l'amministratore delegato di Alstom Ferroviaria Michele Viale. Prevede anche l'estensione della manutenzione da 20 a 30 anni. Con i nuovi pendolino che si aggiungeranno ai 25 già in servizio, a questo punto la flotta di Italo raggiungerà le 37 unità. E invece una notizia non bella per chi soprattutto ama il miele è il crollo verticale che la produzione italiana di miele ha registrato nel 2016. È una delle peggiori annate da 35 anni, meno 70%. Una raccolta decimata dai cambiamenti climatici dei pesticidi. Pensate che il miele di acacia in Piemonte e nel Trivento la produzione è stata pari a zero, e quello di agrumi anche in Sicilia è crollato a zero, per cui praticamente la produzione italiana sarà minore in quest'anno negli scaffali dei supermercati, e si attendono prezzi in media in aumento del 20%. E va bene, il miele era l'ultima delle notizie in breve. Noi partiamo adesso sulla legge di bilancio, come si chiama adesso, la legge finanziaria, le novità e soprattutto le coperture. 349-238-6666 per WhatsApp ed SMS, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, fatemi dire una cosa: chi segue questo programma sa che a maggior ragione nella nostra poco invidiabile classifica del venerdì abbiamo attaccato qualunque tipo di municipalizzata, regione, comune, provincia, fregandocene del colore politico, quindi che fosse del PD e quando c'era Marino e la gestionata che era sua, che fossero di Forza Italia, che fossero della Lega, che fosse... Ora, questo vale anche per i 5 Stelle, che non hanno una patente di verginità solo perché si chiamano 5 Stelle. Non ce l'ho con i 5 Stelle, però perché quando attacchiamo gli altri partiti non mi becco mai gli insulti che sto ricevendo da qualche minuto per aver annunciato che parleremo di AMA e ATAC? Mi scrive un ascoltatore: ma si sono dimessi loro? No, un attimo, ci sono dimissioni che tu che dai perché sostanzialmente ti cacciano. Retighieri in un'intervista dice: ho lasciato l'ATAC per troppe ingerenze del sindaco Raggi. Avrà ragione la Raggi, avrà ragione Retighieri. Io poi parlerò solo dei bilanci e di quello che era stato fatto, ma non si può dire che se ne sono andati perché non gli piaceva star lì. Cosa analoga anche per quello che riguarda l'AMA, adesso la racconteremo, ma il principio è che o si può criticare chiunque, qualunque sia il colore politico, al nord, al centro, al sud, non me ne frega nulla, autonomie provinciali, autonomie regionali, o se no di cosa stiamo parlando, ok? Poi è inutile continuare a dire che stiamo montando un'arma di distrazione di massa. Oh, ma se il problema ce l'hanno i 5 Stelle, mica è colpa mia. Retighieri, potevi tenerlo, vedere come stava lavorando, potevi tenere anche Filippi e i due dell'AMA che avevano cercato di rompere il sistema di Cerrioni, ok? E i conti stavano migliorando, va bene? Poi uno può dire, non ho messo uno migliore. Vabbè, posso dire che non ci convince? Posso dire, come abbiamo detto per tante altre amministrazioni comunali o per Roma ai tempi di Marino o per Milano o per la Lombardia o per la Sicilia, che non convince, che non convince che tu metta un assessore che ha fatto 13 anni da consulente con la scrivania dentro a 1.350.000 euro, sempre con contratti mai diciamo resi espliciti? Possiamo dirlo? O siccome si chiamano 5 Stelle, che tra l'altro quando c'è da attaccare, giustamente, sui siti non risparmiano nessuno, nessuno, ok? Nessuno. Parlavano dell'euro ieri sul sito dei 5 Stelle. Ah, per favore. Adesso mi calmo e parliamo della finanziaria. E vediamo cosa ha annunciato il Presidente del Consiglio e cercheremo di capire quanto ci sia di annunci e quanto ci sia di coperture. Arriveranno le critiche al Presidente del Consiglio, noi le leggeremo, ne prenderemo atto come sempre. Dino Pesole, adesso le 24 ore, buonasera. Buonasera, ben ritrovato. Eccoci, bene. Bene. Allora, il Presidente del Consiglio ieri ha annunciato nella manovra aiuto a pensioni minime e a chi vuole uscire dal lavoro prima. E poi in legge di stabilità sblocchiamo i salari, giù i contributi per le partite IVA. Aggiungo anche le indiscrezioni di uno studio, di un intervento sulle imprese in cui l'IRES dovrebbe scendere dal 27,5% al 24%, che costa 3 miliardi. La domanda sarà come fa il governo a trovare le coperture. Però prima ascoltiamo cosa ha annunciato ieri a Porta Matteo Renzi. Questi passaggi, iniziamo dalle pensioni. Una misura sulle pensioni. Anzi, due misure sulle pensioni. Una, per dare un po' più una mano a chi ha la pensione minima. Due, trovare il modo di agevolare chi se ne vuole andare in pensione ed è agli ultimi anni attraverso una sorta di, chiamiamolo scivolo, qualcuno lo chiama APE, anticipo pensionistico. Il tema è, se tu sei arrivato nell'ultima fetta di anni che ti mancano prima di andare in pensione, uno, due, tre anni, rinunciando a pochino, però che tu possa andare in pensione un anno prima, questo magari uno va a fare il nonno o semplicemente non ne può più di lavorare. Perché? Perché questa è la generazione che è rimasta nel mezzo, schiacciata tra i limiti di prima, che erano fin troppo generosi, e i limiti di oggi della Fornero, che sono pesanti. Oh, mamma mia... Scusami Dino, ma devo rispondere anche ai messaggi. Ho mai detto che i 5 Stelle sono uguali agli altri? Che sono disonesti come gli altri? Ho mai detto una cosa del genere? No. A parte che non lo so, non ho il termometro della disonestà, non ho l'indicatore, il coefficiente, l'algoritmo della disonestà. Però non l'ho mai detto. Abbiamo detto semplicemente che se ci sono delle scelte criticabili su due municipalizzate, uno ne prende atto e vediamo il lavoro che hanno fatto i due. Abbiate un po' di pazienza. O avete già la verità rivelata? Mi ricorda come quando... Vabbè, meglio che stia zitto, dai. Renzi sui dipendenti pubblici, sbloccheremo i salari e sulle partite IVA, ascoltiamoli assieme, quindi giù i contributi per le partite IVA. Detto dunque che dobbiamo cambiare la pubblica amministrazione, ridurremo da 5 a 4 i corpi di polizia, la forestale entra nei carabinieri, continuiamo con la conferenza dei servizi, con le autorizzazioni a ridurre i tempi, però c'è anche un dato di fatto, i dipendenti pubblici da 7 anni hanno il contratto bloccato. Allora, lavorare per sbloccare l'adeguamento salariale e i contratti del pubblico impiego è il quarto punto di attenzione a quella che io chiamo equità. Bisogna legarlo, come abbiamo fatto con i dirigenti, anche a incentivi di merito. Questo vuol dire che il dirigente bravo deve prendere di più, il dirigente meno bravo deve prendere di meno. Sono circa 520.000 le persone non iscritte agli ordini che hanno la partita IVA. Allora vogliamo risparmiare, far risparmiare un po' di soldi. Loro dovrebbero andare al 33% di percentuale, diciamo, di aliquota contributiva. Vogliamo fargli ridurre questa aliquota, trovando il modo però di garantire che abbiano del lavoro e che siano sul mercato. E da questo punto di vista noi stimiamo che possano avere un risparmio, non gli diamo dei soldi a loro, ma che possano avere un risparmio di circa 1.000 euro all'anno. Stiamo valutando le simulazioni, il punto è raggiungere 500.000 partite IVA. Allora, Dino Pesole, qui la valutazione è di carattere economico sulle coperture. Lo dico anche a chi scrive, guardi, è È chiaro, è chiarissimo il suo intento politico, nulla di male, ma non lo spacci per economia. Allora, se lei ha ragione, allora era chiaro anche il mio intento politico quando parlavamo di Crocetta e del Parlamento siciliano. Volevamo far cadere Crocetta e attaccare Crocetta. Quando parlavamo della Lombardia e della gestione di alcune cose, ne parleremo anche nella classifica di venerdì, ci sarà la Lombardia. Vogliamo far cadere il governatore Maroni, ce l'abbiamo con la Lega. Quando parlavamo del Friuli, ce l'avevamo, immagino, con il PD e con la Serracchiani. Se la ragionate così, la classifica è tutta una classifica con fini politici. Noi cerchiamo di dare una classifica e di raccontare gli sprechi della pubblica amministrazione. Se c'è qualcosa che non ci convince, lo diciamo, anche se lo ha fatto uno dei 5 Stelle. Va bene? Allora, Dino, prima del metro e la pubblicità, ci sono le coperture, poi arriviamo ai vari dettagli, o ancora sono tutte da individuare? Se aggiungiamo anche i 3 miliardi per la riduzione dell'IRES. Sì, allora, per quest'ultimo punto, in realtà la riduzione dell'IRES è già incorporata nei saldi di finanza pubblica, perché è già stata finanziata con la legge di stabilità di quest'anno. Questa si tratta di quasi 3 miliardi, 2,9, che dovrebbero scattare dal prossimo 1 gennaio. Quindi non è tanto questo il punto, quanto tutto il lungo elenco di ipotesi che sono allo studio del governo, che riguardano sia l'aspetto pensionistico che l'aspetto fiscale. E qua, fatti un po' di conti, effettivamente si parla di risorse ingenti, perché alla fine, se ci mettiamo anche tutte queste ultimissime indicazioni che riguardano la possibilità di una tassa piatta al 24% proporzionale per tutte le imprese, che sostanzialmente si collegherebbe poi a quella dell'IRES, ma l'IRES si applica alle società di capitali. E in questo caso sarebbero coinvolte le imprese individuali e le società di persone. Certo. Mettiamoci anche tutto il pacchetto previdenziale, che è notevole, le risorse da destinare ai rinnovi contrattuali, e qui stiamo già attorno ai 10 miliardi, così a spanne. E dunque, se immaginiamo che ci sarà un po' più di deficit, che peraltro servirà pure a evitare che aumentino le tasse, perché lo ricordiamo ai nostri ascoltatori che pende comunque sempre l'aumento dell'IVA per effetto delle vecchie clausole cosiddette di salvaguardia. Eh sì, che se non riduciamo il deficit scatta aumento dell'IVA e le clausole di salvaguardia. Sì, un po' di deficit si può fare, ma qui bisogna trovare le risorse. Ecco, vorrei capire quanto, anche perché non è un mistero per nessuno, che siccome l'economia va peggio di come abbia stimato e stimasse soprattutto il governo, che ne dica, insomma 0,7, 0,8, non è l'1,1, 1,2, questo, al di là dei motivi, porta un problema nel rapporto deficit-PIL, perché tu lo stimavi più in calo perché immaginavi un denominatore più alto. Se il denominatore si riduce, ti aumenta in automatico il rapporto. No, banale, ma è così. E quindi il deficit, primo aspetto. L'altro aspetto sul governo, da questo punto di vista, Dino, è capire perché c'è molto nervosismo. Ho visto le dichiarazioni oggi del ministro Alfano sulla patrimoniale. Alfano ha fatto una dichiarazione molto dura dicendo: non voteremo mai una legge di stabilità o legge di bilancio con dentro la patrimoniale. E questo cosa porta a dire? Perché le due cose si tengono? Perché da qualche parte le coperture si dovranno trovare se vuoi fare queste cose. La risposta dopo il metodo e la pubblicità: 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. minuti. Allora, Dino Pesole, senza girarci attorno, se servono 3 miliardi da una parte per l'IRES e poi 10 miliardi come tu stimavi, mai contati, per quanto ha annunciato ieri il Premier, il PIL cresce meno del previsto, il deficit è più alto. Perché lo dico? Perché non vorrei che già, se Bruxelles ci dovesse concedere un po' di flessibilità in più, non vorrei che fosse già mangiata da un PIL che cresce meno. Non so se mi sto facendo capire. E perché poi Alfano è così diciamo nervoso o comunque sensibile al tema, tanto che ha fatto dichiarazioni molto forti oggi dicendo: se c'è un'ipotesi di una legge di stabilità di patrimoniale, l'UDC non la vota? Allora, sul primo punto, a maggio, quando la Commissione europea ha concesso all'Italia 14 miliardi di flessibilità su quest'anno, il governo si è impegnato a ridurre il deficit nel 2017 all'1,8%, questo è il primo dato. Però era un obiettivo che era tarato su un target di crescita che adesso non esiste più, è stato bruciato da una congiuntura che non è proprio quella attesa. Si pensava di crescere all'1,2%, quest'anno se andrà bene arriviamo allo 0,8%. Esatto. E quindi ci sarà un maggior deficit, ma come tu dicevi, come dire, automatico, perché era un rapporto di frazione tra denominatore e numeratore. E questo è un punto. L'altro è che il governo punta comunque a come dire, a ottenere qualche margine in più anche nel 2017 sotto forma delle varie clausole di flessibilità e che poi si traducono anch'esse in maggior deficit, tenendo conto che noi quest'anno chiuderemo al 2,4 e quindi l'anno prossimo al massimo ci possiamo spingere dal 2,3-2,4 perché però Bruxelles non ci concede flessibilità se non riduciamo almeno di un poco un anno sull'altro. Quindi sul fronte del deficit non è che c'è da fare grandi ipotesi di da attendici grandi cose da Bruxelles, certo. No, anche perché ricordo che buona parte del maggior deficit sarà utilizzato per evitare gli aumenti IVA, quindi su questo c'è poco da fare. Tutte le manovre e le misure di cui stiamo parlando, poi parliamo della patrimoniale, che costano molto, e queste vanno finanziate con risorse nuove, e quindi torniamo di nuovo all'eterno dilemma di ogni manovra, ci vuole la cosiddetta spending review, ci vogliono i tagli alla spesa. Mi sembra improponibile finanziare tutte queste misure con aumenti delle imposte, quindi ritorniamo al punto di partenza. Sì, però sappiamo anche che i tagli alla spesa, per carità, li puoi mettere in bilancio. C'è chi, e anche a Bruxelles, storcono un po' il naso perché dicono: beh, queste sono proiezioni attese, non sono dati certi. E quindi insomma mi sembra di capire che tu in questo momento vedi o intravedi come unica possibilità per arrivare a una copertura, perché la flessibilità che Bruxelles ci concederà ci servirà per non far scattare in automatico le clausole di salvaguardia e l'aumento dell'IVA, e quella ce la siamo giocata lì per avere una manovra che tutti chiedono di impulso all'economia e quindi riduzione del carico fiscale su imprese e lavoratori. Poi c'è il tema delle pensioni, tu dici bisognerà girare attorno alla spending review? Direi che questa è l'unica possibilità, anche perché l'altra, aumentare le imposte, si è parlato questo stato della possibilità che vengano riaperti i termini per chiamiamola anche se in modo improprio la sanatoria per i capitali che rientrano, e poiché sono scaduti i termini, se verranno riaperti con condizioni anche ancorché diverse, si potrà ottenere un altro miliardo e mezzo. Però il punto di fondo è che occorre lavorare sulla spesa. Quanto alla patrimoniale, e beh, queste sono le solite voci che si rincorrono nelle fasi che precedono le manovre. Intanto ricordiamo a tutti che la patrimoniale c'è già, è stata inserita, introdotta dal governo Monti nel 2011 sotto forma dell'IMU, che cos'è altro se non una patrimoniale. Allora, di patrimoniale, capire di che cosa stiamo parlando, c'è una nuova patrimoniale sugli immobili o su quali altri patrimoni? Non si sa. Io non credo che questa possa essere una strada, anche perché obiettivamente se aumentiamo le tasse in una fase di economia calante, che facciamo? Riduciamo ancora più i consumi? No, altro ragionamento, ma ci porterebbe un po' in là oggi, è quello che fanno alcuni economisti, dicono se questa patrimoniale fosse una vera cosiddetta tassa di scopo, cioè avesse un obiettivo chiaro, non finisse nel calderone della riduzione del debito, ma fosse una tassa di scopo, per cui tu dici perfetto, noi raccogliamo X dalla patrimoniale per ridurre dello stesso ammontare l'IRPEF, allora uno potrebbe anche fare un ragionamento sul futuro, perché tu magari hai una tassazione come adulto, però dici mio figlio pagherà un'IRPEF più bassa, perché chiaramente stiamo parlando di riduzione dell'IRPEF, non per i redditi alti, oppure un'agevolazione anche per i neoassunti. Allora uno potrebbe fare un ragionamento veramente, insomma, non solo su se stesso, però deve essere organizzato in quel modo, cioè non, se inizi a avere il timore che una patrimoniale, o la certezza che una patrimoniale vada a confluire nella gestione della spesa pubblica senza vedere una riduzione della spesa pubblica stessa, della spending review fatta seriamente, è chiaro che la patrimoniale è inaccettabile in quel modo. Altra cosa se ci fosse una riduzione significativa di punti percentuali in busta paga, di pressione fiscale in busta paga, quindi cuneo fiscale forte e dura, finanziata con la patrimoniale, potrebbe anche assumere i contorni di una solidarietà nazionale, chiamiamola così, tra diversi soggetti. Comunque, dai, vedremo. Mi sembra che non stiamo facendo il portavoce di Renzi, perché mi sembra che nel colloquio con Peso abbiamo espresso molti dubbi sulle coperture e dove arriveranno queste coperture, perché aggiungo, la spending review, ripeto, benissimo, però è ormai 2 anni che stiamo ragionando di una spending review che non butta quello che dovrebbe buttare. E anche lì, visto che criticavamo i 5 Stelle, fatemi criticare anche la decisione, abbiamo fatto 1000 volte, di mandare via Cottarelli in quel modo con un lavoro già avviato. Grazie Dino Pesole, andiamo grazie. Sul traffico e poi la borsa, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago 8-11 settembre. Vi presenta Focus Economia. Di nuovo in diretta, andiamo sulla borsa. Allora, oggi giornata positiva per Milano più che per altre borse, più 1,40% Milano, più 0,60% Parigi e Francoforte, Londra più 0,20%, Dow Jones meno 0,20%. Popolare Emilia Romagna più 3,37%, come Leonardo Finmeccanica, Recordati più 3,20%, Ferrari più 3%, ST Microelectronics più 2,80%, Enel più 2,70, Exor più 2,40, Fiat Chrysler pure e Yux Net a Porter più 2,30. Bene, anche Poste Italiane più 2%, Atlantia più 1,80, Salvatore Ferragamo più 1,80 anch'esso, Prismian più 1,40 come generali, euro a quota 1,12. Come sempre il commento con Radio Cori Sole 24 Ore e oggi nella persona di Andrea Fontana. Andrea, buonasera. Buonasera Sebastiano. Dicevo, bene oggi energetici, abbiamo letto, settore auto, Leonardo Finmeccanica. Partiamo da Leonardo Finmeccanica. È un periodo di buon rialzo per Leonardo, è arrivata ai massimi da fine maggio, questa settimana una serie di indicazioni positive che sono arrivate da prima un contratto per in Qatar per la sua società missilistica MBDA, poi dal continuare delle indiscrezioni su possibili aggregazioni con la franco-tedesca Airbus e da ultimo ieri l'annuncio di un rafforzamento in Polonia del gruppo aerospaziale grazie a un asse con una società locale polacca, PGZ, attiva nel settore della difesa, tutte operazioni che danno visibilità al titolo, che appunto l'hanno riportato vicino agli 11 euro. Ancora diciamo bene oggi l'intero settore energetico, Enel soprattutto più 2,70 e anche Xor, che non c'entra nulla con l'energia, controllante del gruppo Fiat, Chrysler più 2,40%. Sì, bene l'energia, c'è stato anche un piccolo rialzo del petrolio che è ritornato ai 45 dollari al barile a New York, soprattutto per quanto riguarda Enel, l'attesa da parte di qualche analista, specificamente oggi Goldman Sachs, è che in occasione dei conti dei 9 mesi a novembre possano essere riviste al rialzo gli obiettivi di fine anno, gli obiettivi finanziari e anche la promessa, diciamo, di dividendi per la prossima primavera. Insieme a Enel anche A2A si è mossa bene nel settore dell'energia e tra i petroliferi anche Eni ha guadagnato un 1% pur non facendo meglio dell'indice che ha guadagnato l'1,4%. Ancora sui titoli, oltre a Eni, Leonardo e gruppo Fiat, ci sono buoni dati per Atlantia, no? Più un 80%. Sì, i dati che erano attesi i dati del traffico del periodo estivo. E c'è un'anticipazione oggi, un'indiscrezione sul Sole 24 Ore, citiamo anche quella. Dai. Esatto, innanzitutto per quanto riguarda il traffico dei mesi di luglio e agosto c'è stato un più 2,9%, quindi una dinamica positiva per il traffico. Insieme a questo un'operazione, la notizia in discrezione di un'operazione straordinaria in arrivo, la vendita di una quota di minoranza, si parla di un 30% di Autostrade per l'Italia, la principale controllata di Atlantia nel settore autostradale. Proprio il Sole parla di un'accelerazione su questo dossier e che entro la fine dell'anno potrebbe portare a delle novità concrete. È un'operazione di cui si parla da tempo, ma un'accelerazione potrebbe appunto avvicinare l'esecuzione di questa operazione che sarebbe accolta positivamente dal mercato. Poi c'è il tema generali, perché Sogen, Società Generale, ha annunciato di essere diventata il secondo socio delle generali e si sta muovendo anche Caltagirone, se abbiamo ben letto. Prego. Sì, per quanto riguarda Società Generale, ieri ha annunciato di essere al 4,17%, quindi essere il secondo socio delle generali. Il timore per quanto riguarda gli analisti era che se questa fosse un'operazione di puro trading, quindi fatta per conto terzi, o se fosse una posizione significativa, magari strategica, in vista di operazioni più importanti. Ricorderete come quest'estate si è tornati a parlare della possibile aggregazione AXA Generali. E in serata Società Generale ha però fatto sapere che si tratta invece di operazioni realizzate per conto di clienti e quindi un'operazione di semplice attività di mercato. Questo dovrebbe leggermente spegnere, diciamo così, quella che è una speculazione sul titolo, peraltro come abbiamo visto su un titolo cui soci forti si stanno muovendo. Caltagirone nel mese di agosto ha ripetutamente aumentato le sue quote, fatto acquisti, esattamente. Sì, anche perché il titolo rispetto a quanto quotava a metà del 2015 sui 19-20 euro per azioni, quota adesso 12-13 euro per la precisione, quindi il ragionamento che alcuni fanno è che insomma è abbastanza conveniente comprare e aumentare le posizioni. Staremo a vedere. Era importante il chiarimento che tu hai dato poi della nota di ieri sera di Sogen, perché c'era stato un po' di maretta. Andiamo sui migliori e peggiori. Oggi c'è CHL più 31%, Dimen Group più 21%, Industria e Innovazione più 16,70%, Classe Editori più 9,6%, Bio2 più 9,5%, Gefran più 8,2%. E invece il peggiore è First Capital meno 4,5%, Meridia meno 4,2%, Assiteca meno 4,2%, Safebag meno 4,1%. Grazie anche ad Andrea Fontana. Dopo il GR24 parleremo della legge di bilancio tedesca e di quello che sta capitando in Germania, e poi parleremo anche di AMA ed ATAC, con buona pace di chi continua a insultare. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Parte un'altra grande stagione di grandi storie a Il Falco e il Gabbiano. Hanno tracciato una via nuova al rock e hanno scritto un inno che è entrato in tutti gli stadi, i White Stripes. La vita difficile di una grande donna, madre e moglie di campioni di Formula 1, Joanna Villeneuve. Un nobile dandy che ha vissuto con i grandi del rock, Stash. Un allenatore diverso dagli altri, lo chiamavano il filosofo, Manlio Scopigno, e l'avventura del grande scudetto del Cagliari di Gigi Riva. La vertiginosa ascesa del cuoco più odiato dei talent, Gordon Ramsay. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30, Il Falco e il Gabbiano. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Focus Economia. :18 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di arrivare ad AMA e ATAC, vorrei occuparmi di Germania. Sì, da Berlino a Roma, e il passo non è breve. Perché? Perché oggi c'è stata una presentazione della legge di stabilità, ne hanno parlato vari esponenti in Germania, ma e soprattutto il Falco, il ministro tedesco delle finanze Wolfgang Schäuble, ha presentato il budget 2017, importante piano di sgravi fiscali per le piccole e medie imprese, 15 miliardi di euro in meno e i contribuenti a basso reddito. E fin qua tutto bene. Nel giorno in cui la Germania ha raggiunto il livello più basso di disoccupati da 25 anni a questa parte, e soprattutto nel giorno in cui, secondo le stime dell'istituto di ricerca tedesco IFO, la Germania toccherà un record nell'avanzo di bilancio, l'attivo di bilancio, toccando l'attivo di bilancio più grande al mondo, 278 miliardi di euro, praticamente il 9% del PIL, nonostante, lo ripeto, le varie raccomandazioni di Bruxelles, che ha chiesto alla Germania di non andare oltre il 6% di avanzo, perché, lo ripeto, secondo gli accordi di Maastricht un paese non può fare troppo deficit oltre il 3%, deve ridurlo fino a zero, ma non può fare neanche troppo avanzo, cioè non ci può essere un fratello in una casa simile che spenda troppo più di quello che guadagna, ma nemmeno uno che spenda troppo poco, altrimenti andremo in disarmonia completa. La Germania se n'è fregata bellamente. Professor Alberto Crali, che è responsabile del corso di laurea in italo tedesco alla facoltà di scienze politiche della Cattolica di Milano, autore del libro Primi della classe. Buonasera Crali. Buonasera. La domanda vera però è: ma se la Germania, mi sembra inequivocabile, è il paese che più ha goduto, ha beneficiato, grazie ai meriti anche suoi, ci mancherebbe, dell'euro, di questa gestione dell'area euro a trazione tedesca, ma di cosa si lamentano? Cioè, hanno la disoccupazione più bassa da 25 anni, continuano a fare avanzo di bilancio nonostante la richiesta che è arrivata anche dal G20 di smetterla di risparmiare e spendere, in fare investimenti, non spendere, sprecare, fare investimenti infrastrutturali, servono anche in Germania, sono bloccati, sono indietro, e quindi creare un riequilibrio in un'unica economia che è quella dell'area euro. Dico, almeno non si dovrebbero lamentare, o sbaglio? Ma guardi, loro non è che si lamentino, il punto è che ritengono che se le cose vanno male negli altri paesi, non è detto che debbano andare male anche da loro, cioè che debbano importare difficoltà che sono specifiche dei paesi di riferimento, nel caso specifico dei paesi del sud Europa, perché lei ha ricordato adesso il problema dell'eccesso di export, che gira intorno all'8,9% del PIL tedesco, che è sicuramente una misura esagerata, però bisogna tenere presente che abbiamo un paese come l'Italia che ha un debito mostruoso, che costantemente siamo noi come paese là a chiedere l'elemosina a Bruxelles per avere delle possibilità di flessibilità, e quindi che per fare cose che vanno poi in un certo senso a debito, e quindi come tale questo crea in Germania una situazione di insicurezza. E del resto l'ha visto anche alle elezioni, cioè le elezioni in Germania adesso che abbiamo avuto nel Mecklenburg-Vorpommern sono un'espressione tipica di un disagio, di una insicurezza, l'insicurezza che la Germania ha attualmente, la popolazione tedesca ha attualmente nei confronti degli immigrati è nient'altro che l'espressione di una altrettanta insicurezza, che è quella di essere all'interno di un'area euro dove i paesi non sono uguali, dove un paese va da una parte e gli altri vanno dall'altra, e dove l'euro ha sempre più difficoltà a tenere assieme queste economie, perché di fatto noi adesso abbiamo tre strutture economiche, abbiamo dei paesi che tirano e la Germania naturalmente al primo posto, poi abbiamo paesi deficitari che arrancano e la Francia nel frattempo è venuta in questo gruppo, e adesso abbiamo i paesi dell'est che invece hanno delle prospettive di sviluppo economico, per cui anche un Orban che è considerato il grande persecutore degli emigrati, però è anche vero che questo naturalmente dice in futuro i nostri studenti li facciamo studiare qui da noi perché qui abbiamo delle possibilità di lavoro che invece all'ovest non ci sono più. Questa è la situazione. Sì, però mi scusi Crali, lei mi capisce bene che in una situazione di questo genere qua tutti hanno paura e tirano i remi in barca. Però scusi, no, Crali, io Crali, ho capito, ognuno tira i remi in barca, ognuno pensa ai casi suoi più che tra i remi in barca. Però mi scusi Crali, ma se i tedeschi sono preoccupati per quello che sono gli altri paesi, nonostante dal 2008 in poi la gestione dell'austerità imposta anche dalla Germania ha portato benefici per ora solo in Germania, nei paesi satelliti, cosa dovrebbero fare gli italiani, i portoghesi, gli spagnoli che si sono visti applicare e l'intera area politiche recessive, come ormai dicono in sala, non lo dico io, dice il Fondo Monetario Internazionale, l'Ocse, il G20, che è stato sbagliato insistere solo sull'austerity alla tedesca. Cioè, quello che sto dicendo è che anche riconoscere che per meriti anche loro, ma questa gestione dell'Europa, almeno la Germania non ha creato nessun problema, le ha portato alla disoccupazione più bassa da 25 anni, era questa un po' la provocazione della domanda, cioè di che cosa ti lamenti, e aggiungo, perché le sanzioni scattano e sempre sono una minaccia sul 3% del deficit, o se non rispetti il piano di rientro al 2,4, e se un paese se ne frega egregiamente di tutte le raccomandazioni arrivate da Bruxelles su non avere un eccesso di avanzo di bilancio e va quest'anno al 9%, non scattano le sanzioni? Ecco, ascolti, allora il punto è semplice. Se lei mi parla di una inadeguatezza della gestione politica della crisi europea da parte della Germania, che ha il compito e anche il dovere, essendo la potenza economica maggiormente più rilevante dell'intera Unione Europea, se lei mi parla di questo, gli do assolutamente ragione. E questo è il grande problema, perché guardi che l'errore, se vogliamo fare le pulci in casa degli altri, nel caso specifico di quelle tedesche, noi abbiamo una inadeguatezza della signora Merkel, la quale signora Merkel ha puntato al momento dello scoppio dell'eurocrisi a sviluppare, a potenziare gli interessi nazionali tedeschi, pensando che ciò che fa bene alla Germania faceva bene anche all'Europa. Questo è il grande equivoco da cui poi è nato tutto, per questo si è andato a depotenziare le autorità europee, che avranno i loro difetti, però rappresentano un momento di sintesi di tutta la struttura europea, e quindi conseguentemente ha facilitato ancora di più i rapporti intergovernativi che hanno portato alla situazione in cui noi attualmente ci troviamo. Questo è il grande errore, ed è stato un errore diciamo così di tipo economico, nel senso che dal punto di vista economico ha pensato bene che ciò di potenziare l'economia tedesca, e tutto ciò che faceva bene alla Germania andava bene, e andava bene anche per gli altri, doveva andare bene anche per gli altri, e adesso naturalmente paga il fio politico di questo, perché politicamente questa cosa qua a un certo punto non tiene più, e i suoi stessi elettori le si ribellano contro. Questo è il grande problema che attualmente la Germania vive, cioè l'incapacità di dare ad a un'Europa che chiede stabilità, ma chiede anche al tempo stesso guida, e che per la prima volta nella storia della Germania chiede alla Germania su un piatto d'argento per favore di guidarla, dopo che sono state due guerre mondiali con milioni di morti. Ecco, questa la Germania non è in grado di farsi carico di questa responsabilità. Se di questo mi parla, io le do perfettamente ragione, ed è questo il problema, ma questo non risolve però la questione, perché noi adesso viviamo una situazione in cui invece vivono diverse entità nazionali che pensano a loro stesse e che non riescono a risolvere il problema. Ora, adesso mettendolo in termini molto pratici, sì, la cosa ha questo tipo di prospettiva, e cioè dal punto di vista politico alle prossime elezioni del 2017 molto probabilmente la signora Merkel si candiderà, e la CDU non avrà delle perdite così rilevanti, perché l'elezione del Mecklenburg-Vorpommern e quella del Sachsen-Anhalt hanno dimostrato che l'AfD, che è l'alternativa per la Germania, che è il partito che attualmente tira attualmente in Germania, che è cosiddetto xenofobo, ma fondamentalmente invece è nazional conservatore, e questi qui vanno a pescare in tutti i bacini elettorali, quindi vanno a pescare dai socialdemocratici, dalla sinistra, dai verdi, che hanno perso tutti i voti a vantaggio di loro. Quindi le perdite della CDU possono ammontarsi al massimo al 3%, ma oscillano tra l'1 e il 3% come perdite di prospettiva. Okay. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in prospettiva noi avremo molto probabilmente che la CDU avrà bisogno, essendo indebolita, di una grande coalizione, e avrà bisogno dei socialdemocratici, quali a loro volta però non ci stanno più a fare una grande coalizione, perché sanno che per loro è sempre perdente. E quindi il grande obiettivo che adesso la socialdemocrazia ha in Germania è quello di creare un'alternativa di coalizione che è fatta dei verdi e fatta fatta della, okay, della Linke. Poi, perché? Perché sia i Verdi sono in calo, la Linke, quindi la sinistra. Sì, Crali, cioè, ho capito quello che stai dicendo, anche perché poi le elezioni sono del 2017, non arriveremo ospite. Altre volte mi interessava il suo punto di vista su una cosa, sono d'accordo con lei, almeno su quella, il fatto che la Germania è leader economica ma non ha capacità di leadership politica, e questo ha creato una crasi e anche uno scontro completo nella gestione dell'Europa. Grazie anche al professor Alberto Crali. Traffico e poi Ama e Atac e viva Pindaro. Focus Economia. Allora, l'AMA, azienda municipalizzata dell'ambiente di Roma, 7500 dipendenti, che cosa succede? Succede che la gestione di due personaggi, ossia Alessandro Filippi, ingegnere romano, direttore generale di finanza dell'AMA, e Daniele Fortini, ex numero uno, ex amministratore delegato dell'AMA, ha portato all'ultimo bilancio 2014, c'era gli utili di bilancio 2014 era 2.278 mila euro, nel 2015 l'utile va a 893 mila euro, okay? Quindi triplica quasi, i mezzi vengono incrementati del 15% e si riduce l'assenteismo del personale del 20%, la differenziata aumenta dell'11%, ma soprattutto Filippi e Fortini riescono a mettere in un angolo Manlio Cerroni, chiamato Ermonnezza, il signore dell'immondizia romana, patron della discarica di Malagrotta, la più grande discarica a cielo aperto d'Europa, chiusa nel 2013. Gli spengono l'impianto di tritovagliamento di Rocca di Cencia, smettendo di conferirgli i rifiuti. Perché? Perché dicono che bastano gli altri quattro impianti che ci sono a Roma a farli lavorare a pieno regime per non aver bisogno dell'impianto di Cerroni, il quale Cerroni, lo ricordo, ha un contratto da 1 miliardo di euro l'anno per 15 anni per la gestione dei rifiuti, ok? E tra l'altro per lo stabilimento in questione Cerroni ha strappato a Giovanni Fiscon, allora direttore generale di AMA, prima di questi due, prima appunto di Filippi e di Fortini, indagato nella vicenda Mafia Capitale, un contratto da 175 euro a tonnellata di rifiuti. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire 175 mila euro al giorno, 60 milioni di euro l'anno, con una clausola capestro, perché se viene sottoutilizzato l'AMA comunque deve riconoscere un compenso di 122 mila euro al giorno. I due chiudono questo impianto di Cerroni. Che cosa succede? Che quando arrivano Paola Muraro dal centro di questa inchiesta, non voglio parlare della parte giudiziaria né dei 5 Stelle né delle mail non lette, capite male, gli sms, non me ne frega nulla, e Virginia Raggi, il 25 luglio riaprono il tritovagliatore di Cerroni e tra l'altro si liberano di Fortini. Prima cosa strana, possiamo dirlo anche ai 5 Stelle, c'è una gestione che ha triplicato l'utile in un anno, che leva il finanziamento, diciamo la materia prima, la monnezza a Cerroni. Il 25 luglio Muraro e Raggi, ma la Muraro ha lavorato per 12 anni come consulente esterna di AMA, ha ricevuto in 12 anni 1.350.000 euro di compensi senza un contratto, solo con lettere di incarico vistate per accettazione, ok? E questa è una ATAC. Allora, ATAC, 12.000 dipendenti, la peggiore azienda municipalizzata d'Europa secondo Der Spiegel. Abbiamo raccontato questa vicenda in 2.000 casi durante la nostra classifica. Ha bruciato in 5 anni 4 miliardi e mezzo di aumenti capitali arrivati da Comune e Regione. Arriva Marco Retighieri, da un'esperienza di manager e piemontese. Mette le telecamere a circuito chiuso in tutti i depositi dei mezzi. Il numero dei furti di materiale precipita e praticamente risparmia 10 milioni di euro all'anno. C'erano 10 milioni di euro l'anno di furti di materiale all'ATAC di Roma, ok? Poi si riduce improvvisamente, da quando arriva Retighieri, il consumo di gomme di 2/3, da 1500 pneumatici a 500. Lui va anche duro con i sindacati, tant'è che boccia l'idea che 850 dipendenti possono fare gli scrutatori, e infatti si registrano strani guasti, 559 guasti al giorno, 100 in più, in un'azienda, l'ATAC, in cui c'è un ruolo di corresponsabilità totale dei sindacati, visto che i sindacati gestiscono anche 18 mensa, i bar, 151 distributori automatici, ok? Allora, Rettinghieri si dimette per ingerenze, dice nell'intervista, troppe ingerenze da Raggi, dovevo lasciare l'ATAC. E tra l'altro cita l'assessore trasporti, che si chiama Meleo, che chiede informazioni, una visione preventiva degli spostamenti dei dirigenti, che lui vive come un'ingerenza. Tutto questo è sui numeri, non sulla polemica politica. E chiedo al collega che per il Sole 24 Ore segue anche queste vicende, Ivan Cimarusti, buonasera, del Sole 24 Ore. Ciao Ivan. Buonasera. Allora, su due municipalizzate come queste, è una sensazione mia, ma che bisogno c'era di mandare via, o meglio, di arrivare ai ferri corti con Rettinghieri e con chi gestiva, Fortini che gestiva l'AMA? Non è da qui e da alcune scelte che poi iniziano anche dei sospetti, perché la gestione di Rettinghieri e di Fortini oggettivamente sembrava avere fatto cambiare un po' verso a una gestione disastrosa durante la prima parte di Marino, durante Alemán e via così. Prego Ivan. Allora, partiamo dal presupposto che entrambi gli aspetti sono sotto inchiesta alla Procura della Repubblica di Roma. Diciamo che l'indagine più delicata al momento è quella che riguarda AMA. Giustamente parlavi di Fortini e Filippi come dei soggetti che comunque hanno incrementato gli utili della gestione. Triplicati. Però diciamo anche che entrambi hanno avviato una vera e propria operazione di trasparenza all'interno dell'azienda. Hanno avviato proprio una rivoluzione nel comparto appalti, proprio per tutto quel comparto che era stato travolto dalla precedente inchiesta Mafia Capitale e che ha visto anche imputati nel processo che è in corso gli ex dominus di quell'azienda. Citavo Giovanni Fiscon, che era direttore generale, allora direttore generale di AMA, è imputato. Certo. Esattamente, parliamo di Franco Panzirone e Giovanni Fiscon. Mm-hmm. Ecco, quando si parla di rifiuti a Roma si parla di un grande, grandissimo business. È la seconda volta che la Procura della Repubblica capitolina si va ad occupare dei rifiuti e per la seconda volta viene fuori il nome di Manlio Cerroni. Manlio Cerroni addirittura nelle intercettazioni lo chiamano il Supremo, proprio per indicare questo suo potere. Sì, però vedi, il tema adesso... La magistratura farà il suo lavoro, ci mancherebbe, capirà su Mafia Capitale il rapporto tra Cerroni e l'ex numero uno di AMA, Fiscone e quant'altro. Quello che sto io valutando è, nel momento in cui giustamente tu vuoi far pulizia a Roma, e ripeto, giustamente, era così impellente toccare l'amministratore delegato, così urgente di ATAC, il direttore generale di ATAC e di AMA, visto che tutti noi, raccontando anche nella nostra poco invidiabile classifica, avevamo avuto la sensazione che, per carità, i miracoli non li fa nessuno, ma ci fosse stato un po' un cambio di rotta, i sindacati che gli facevano la guerra, un po' di cambio di rotta e trasparenza in più. Ivan. Allora parliamo di AMA, ad esempio. Parliamo di una vera e propria guerra che c'è stata e che c'è ancora tra Paola Muraro, l'assessore M5S indagata alla Procura di Roma, e Daniele Fortini. C'è stato un vero e proprio scontro. Giustamente facevi notare prima la questione del trito vagliatore di Manlio Cerroni. Anche lì io non capisco. Fortini dice che bastano i 4 impianti di trattamento meccanico biologico di cui dispone l'AMA per smaltire i rifiuti di Roma. Non serve quello di Cerroni, che costa tantissimo. No, eppure, però prima cosa, il 25 luglio glielo ridai. No, sarò io che adesso... Fortini aveva fatto un bando europeo. Una società tedesca, la Enki, si era aggiudicata questo appalto per risolvere questioni di emergenza, lo stesso che si è poi creato, che si è poi creata nel mese di luglio. Questo appalto è stato bloccato misteriosamente alla Regione Lazio, dal Dipartimento... alla Regione però, in questo caso, non al Comune. È stato l'intervento dell'assessore Mauro Buschini poi a sbloccare l'appalto. Però intanto si era creata l'emergenza e intanto si è posto Manlio Cerroni come unico interlocutore Ma è sempre così. Guarda che questa cosa l'abbiamo già vista in questo paese. Si arriva all'emergenza, quando hai l'emergenza ti tocca andare subito d'emergenza e attraverso l'emergenza facciamo entrare qualunque cosa. Ivan, io ti voglio ospite domani perché adesso siamo in chiusura del programma, di nuovo su queste due vicende. Non me ne frega nulla della valutazione politica. Roma non hanno mai gestito i 5 Stelle, nessuno sta dando, rispondo agli ascoltatori, la colpa ai 5 Stelle della gestione di Marino e di Alemanno, per citare le ultime due, ma ci mancherebbe, abbiamo raccontato di tutto, io ho anche due querele per la vicenda Mafia Capitale in corso, ok? Per cui contro, per quello che riguardava la gestione della giunta Alemanno. Però se c'è qualcosa che non torna, lo diciamo anche se sono i 5 Stelle, così chiudiamo dove siamo partiti. Detto questo, l'opportunità di tenere, e lo dico chiaramente, e di mettere all'ambiente la Muraro come assessore, dopo che ha fatto 12 anni di consulenza in un'azienda come la Magistra in quel modo, era quantomeno inopportuna, e ha ricevuto 1.350.000 di consulenze anche lì, solo lettere di incarico, era quantomeno inopportuna. Bravissima sarà, ma se hai fatto la consulente in un posto che funziona così male e dove ci sono tutte queste inchieste, almeno non fa l'assessore. La penso così, questo è un giudizio personale e tale, e me ne assumo ogni responsabilità. Ivan, ci risentiamo domani. Intanto da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata a tutti voi, e domani Focus torna dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.